Buonasera a tutte e a tutti. Ecco, iniziamo a Timisfatti di oggi. Oggi martedì 20 maggio. Per iniziare questa agenda volevamo parlare. Beh, ci sembra giusto iniziare parlando della festa di Radio Onda Rossa, visto che è la radio che amiamo, è la radio da cui trasmettiamo da tanti anni, 17, 18, 19, mi sa che abbiamo superato la maggiore età da un po' di tempo, e comunque Onda Rossa invece trasmette da molto più tempo. La festa sarà nel fine settimana del 23 e 24 maggio. Il 23 gli appuntamenti sono qui in strada, in via De Volci, alle 16 con i microfoni aperti e poi alle 19 con un aperitivo, mentre il 24 la festa si svolgerà interamente al Forte Prenestino. Caratteristica di quest'anno è l'idea di iniziare a mettere a disposizione delle ascoltatrici e degli ascoltatori il grande materiale che possediamo come archivio e che fa parte appunto della nostra storia, della storia di Radio Onda Rossa e della storia del movimento tutto. Chiaramente si tratta principalmente di materiale audio delle nostre trasmissioni, ma non solo, è materiale anche, c'è anche un grosso archivio fatto di video, di immagini, di fotografie, anche grazie al lavoro svolto da un compagno, Alfio Di Bella, e quindi diciamo che il recupero di questo materiale appunto fa parte di un progetto che la radio porta avanti da alcuni anni, e questa sarà un'occasione per iniziare a metterlo a disposizione. E quindi sabato 24 ci saranno vari video che verranno mandati in continuazione, così come una mostra fotografica a cura del compagno, caro compagno che ricordiamo, Alfio Di Bella, che sugli anni 70. Ne parliamo e vogliamo anche dirvi che all'interno ci saranno materiale sulle lotte, per esempio contro il nucleare e così via, ma ci sarà anche una parte sul movimento femminista. A questo proposito abbiamo selezionato un breve audio, sentiremo la voce, è un intervento dalla piazza di una compagna che parla a un microfono, è chiaramente un corteo per l'aborto, dura pochi secondi e poi partono gli slogan. La cosa che ci piace di questo audio è che appunto nel 77-78 avevamo veramente la capacità di immaginare un mondo differente e di chiedere tutto, e volevamo veramente tutto, per cui la compagna che parla dice: noi non vogliamo fare gli aborti nelle vostre strutture, critichiamo, contestiamo il potere medico, contestiamo l'ospedalizzazione dell'aborto, noi sappiamo come farlo, noi vogliamo autogestire anche l'aborto. Beh, insomma, mi sembra bello ascoltare questo punto di vista che era nostro e che forse dovremmo in qualche modo appunto ricominciare a fare nostro, per non rimanere sempre su battaglie resistenziali. Quando si possono vedere questi? Vedilo, il sabato è al Forte. Il sabato è al Forte a partire dalle 17 contro immagini, e poi invece alle 23:30 ci saranno una serie di concerti che forse già saprete, Radici nel Cemento e ma vabbè, un reggae mi sa, se ho sentito bene lo spot. Sesto Senso, Percezione Sesto Senso, il reggae da sì. Sì. Vado per l'audio. Noi che vedete qui più altra gente, che veramente non abbiamo niente a che vedere né con le ostetriche né con i medici né con l'università di medicina. Evidentemente abbiamo delle nozioni abbastanza approfondite, tanto da poter fare questi interventi in modo sicuro e da garantirvi una sicurezza totale.